in principio c'era la bestemmia. Nel 1889 invece venne introdotto nel codice penale italiano il reato di vilipendio, ovvero si decise di condannare gli atti di palese disprezzo nei confronti di qualcosa che evidentemente non doveva essere disprezzato. Di fatto né si alludeva, che so, ai principi della termodinamica, né alle geometrie iperboliche non euclidee, né tantomeno all'evoluzionismo darwiniano, che anzi, ecco, poteva essere vilipeso a piacere, ricchi premi e cotillon per i vilipendenti. No, di fatto ci si riferiva alla religione, che tuttavia veniva considerata nel suo complesso, cioè senza discriminare fra culto e culto. Nel 1930 il vecchio codice Zanardelli lasciò il posto al codice Rocco. Il fascismo aveva da poco firmato il concordato con la Chiesa Cattolica e conseguentemente, secondo il principio che i preti è meglio averli per amici, ecco che nella legislazione italiana viene istituito un trattamento preferenziale a tutto vantaggio della Chiesa Cattolica rispetto agli altri culti. Commette reato non solo chi esprime pubblico disprezzo nei confronti della religione cattolica, ma anche chi si esprime contro le sue istituzioni. Dire per esempio che l'insegnamento di Gesù Cristo è ottimo, ma che il comportamento di chi dice di rappresentarlo fa schifo, quello è appunto reato. Nonostante sia elaborato dal regime fascista, qualche rimasuglio, e anche forse di più di rimasuglio, di questo codice Rocco è ancora tra noi. Dal 97 al 2005 la Corte Costituzionale è ripetutamente intervenuta per, diciamo, sistemare alla bella e meglio la situazione. In particolare nel 2000 è stato depennato un articolo della legge che, definendo ancora la cattolica come religione di Stato, contraddiceva ormai apertamente il dettato delle modifiche apportate al concordato nell'85. E da lì ecco che da lì viene una riequiparazione di tutti i culti religiosi che ancora oggi, ecco, come ormai sa anche l'ex ministro Calderoli, risultano sotto tutela. Ai cattolici comunque questa nuova situazione non piacque affatto. Per la serie avrei fatto meglio a tacere. Sull'Avvenire del 22 novembre del 2000, faccio notare, appena 6 anni fa, anche meno, Giuseppe Savagnone, uno che fa parte di una commissione istituita dalla Moratti per stabilire il codice deontologico degli insegnanti, peraltro, Giuseppe Savagnone, dopo aver affermato che la giustizia non coincide sempre con l'uguaglianza, retoricamente si chiede: ma quale persona di buon senso potrebbe sostenere che un'espressione o un gesto irriguardoso nei confronti di Maometto abbiano lo stesso peso alla Mecca o a Milano e meritino un'eguale sanzione? Quale persona di buon senso? Ha scritta appena 6 anni fa. Anche meno. A futura testimonianza della scarsa capacità di analisi e di predittività dei cattolici e del come cambia, ahimè, velocemente, il cosiddetto buon senso. In Italia, nella stessa posizione protetta della religione, codici alla mano fino a qualche tempo fa, si sono trovati i capi di Stato, italiani esteri, la nazione, la bandiera nazionale. In Austria, come testimonia il processo a David Irving, David Irving, uno storico tanto incapace da non aver trovato solide prove della criminalità nazista, in Austria, sottotutela, c'è anche la storia. Nulla di per sé ha un valore. Un valore nasce sempre e comunque da un particolare processo mentale in grazia del quale qualcuno pone in rapporto due cose, almeno due, assegnando alla seconda la facoltà di sanare un'implicazione della prima. L'acqua diventa valore nel momento in cui spegne il fuoco, così come nel momento in cui estingue la sete. La tal persona diventa un valore per un'altra nel momento in cui ne constata l'indispensabilità, che per vivere insieme si debba contemperare in qualche modo questi processi, è ovvio. Perché spesso ciò cui assegno valore io non è lo stesso cui affida valore il mio vicino. Può capitare anche che quel che mi costruisco come valore positivo, il mio vicino se lo costruisca come valore negativo. Sarà quindi difficile convivere, occorrerà tanta pazienza, tanta capacità di negoziazione, qualche rinuncia. Ma in definitiva, se le cose stanno così, convivere si può, ad una condizione tuttavia. Alla condizione che si sia d'accordo sulla provenienza di questi valori, si sia d'accordo cioè sul fatto che il valore è il risultato di un processo individuale, sociale, storico e non qualcosa di indipendente, un di per sé, che è lì soltanto per essere accolto e ossequiosamente applicato. Se qualcuno la pensa così, e se pensa che l'intera vita associata, quella della comunità come quella del pianeta intero, debba essere informata al principio dell'espropriazione dei valori alla fonte, o perché dati da un Dio o perché rinvenibili in natura, beh, sono problemi se qualcuno la pensa così. E sono problemi gravi. La democrazia a cui ambisco è quella eretta sulla consapevolezza della provenienza dei valori. La democrazia che mi fa orrore, una democrazia che mi è difficile distinguere da una dittatura, è quella eretta sull'autorità di valori imposti, sottratti all'elaborazione di chi in questa democrazia deve viverci rimboccandosi le maniche per conseguire quel poco di felicità individuale e collettiva che può permettersi. La prima non ha paura di nulla. La sua storia non si basa sulla verità, ma sulla coerenza, e non confonde mai i simboli con le cose. Non ha paura né della scienza né delle religioni. Teme le contraddizioni, ma soltanto perché procurano l'infelicità di una costruzione mancata. La seconda paura di tutto, e alle persone consapevoli e padrone di se stesse preferisce l'ebete, lo schiavo, il servo, l'esercito degli obbedienti.